un pas, e poi un altro pas. Cappello sbassato sugli occhi, pistola giù in basso. La gella fiada più e la cambia il culo. De che a 5 minuti se spara su tal su. L'aria le ferma e tremen anche i sas. Due uomini della via han deciso de cupas. Fiulit a buca aperta che tengan fermo il can. El becca morte el varda e intanto el frega i man. Te spari per la Juve, per la partita scupa, e fardo un drizzo in faccia che son quel che te cupa. E prima te spara, te disi anche a movena, ir si raggio al burdel o incontranca la tua dona. Parla, pirla, che fra un po' te parle più, te mandi giù all'inferno col vestito te ghezze. E digala al demoni, quante la domanda, a quel che m'ha cupa, che risfrisa la panda. Correte, correte, entriamo al duel. Le meglio la partita di quando era il carusel. Mariangela, Moves, che cane il colpo in cana. Registra più cosche che il vento malmentana. Prepares che tra un attimo la pistola, la fusa, il tofio all'endrugà, ruina la mia tusa. Se te che sei es che ti fede salam, la tua tusa è come la credenza del pan. Te set sempre giù, te stegni anche in pe, ma tanta des, te levi me il pensè. La mia pistola spara, la famena pare, le menga un ciò come quel che c'è a te. Correte, correte, rientri a fa' il duel. Le meglio la partita de quando era il carusel. Mariangela, Moves, che gane il colpo in cana. Registra tu cosche che il vento malventana. Correte, correte, rientri a fa' la bella. Per chi che ha problemi, che brutte sgabel. Madonna che tensione, le peggio di un parto. Che in giri il luser che il ciabel infarto. E i manghi curano in presa, ma i ciabel menga la pistola. I tiran fetus du, de colpo il Motorola. La gente capisna got, la varda già è de là. Come mai i pistoleri gli entrei a telefonà? All'era la mia donna, me sa che godena. E la incazzata negra e le brunte mangia. E il femore un'altra volta anche a me gode scappa. Le compleanno quel penin se son desmentecà.